Non saprei cosa dirvi. Era un uomo che quando aveva parlato di altezze aveva detto tutto. Sapeva una quantità di storie abbastanza divertenti su Guermont, su mia suocera, su Madame de Barambon prima che andasse dalla principessa di Parma. Ma chissà più oggi chi fosse Madame de Barambon. Questo ragazzo, sì, lui ha conosciuto tutto quanto, ma adesso è tutto finito. Sono persone di cui non esiste più neanche il nome e che d'altronde non meritavano di sopravvivere. E io mi rendevo conto, malgrado il tutt'uno che sembra essere il gran mondo, dove in effetti i rapporti sociali arrivano al massimo di concentrazione e dove tutto è intercomunicante, come esistano, tuttavia, o come almeno il tempo produca delle province che cambiano nome, che non sono più comprensibili per chi ci arrivi solo quando la loro configurazione è già cambiata. Era una buona signora che diceva cose d'una stupidità inaudita, riprese la duchessa, la quale, insensibile a quella poesia dell'incomprensibile che è uno degli effetti del tempo, estraeva da ogni cosa l'elemento comico secondo lo spirito Guermont, assimilabile in letteratura al genere Meilhac. A un certo punto le era venuta la mania di inghiottire di continuo certe pastiglie che ordinavano a quei tempi contro la tosse e che si chiamavano, aggiunse ridendo lei per prima, d'un nome così singolare, così noto un tempo, così ignoto oggi alle persone cui si rivolgeva, pastiglie Géraudel. Madame de Barambon, le diceva mia suocera, inghiottendo tante pastiglie Géraudel finirete col rovinarvi lo stomaco. «Ma signora duchessa», rispose Madame de Barambon, «come possono farmi male allo stomaco se vanno nei bronchi?» E poi era lei che diceva, «la duchessa ha una vacca così bella, ma così bella, che la prendono sempre come stallone». E Madame de Guermont avrebbe continuato volentieri a raccontare storie di Madame de Barambon, ne conoscevamo a centinaia, ma sentivamo che nella memoria ignorante di Bloch quel nome non destava nessuna delle immagini che si alzavano per noi non appena si cominciava a parlare di Madame de Barambon, del signor di Beauté, del principe di Agrigento, e che proprio per questo esso era dotato ai suoi occhi d'un prestigio che sapevo esagerato, ma trovavo comprensibile. Non tuttavia perché l'avessi a mia volta subito, dato che i nostri errori e le nostre goffaggini hanno raramente per effetto di renderci, anche quando ormai li abbiamo messi pienamente in luce, più indulgenti verso quelli degli altri. La realtà, d'altronde insignificante di quel tempo andato, era talmente perduta che a qualcuno che non lontano da me voleva sapere se Gilbert avesse ereditato la tenuta di Tansonville dal padre, il signor di Faucheville, qualcun altro rispose, ma no, assolutamente, viene dalla famiglia del marito. È tutta roba Guermont, Tansonville è vicinissima a Guermont. Apparteneva a Madame de Marsan, la madre del marchese di Saint-Leu, solo che era piena di ipoteche. Così l'hanno data in dote al fidanzato e con i soldi di Mademoiselle de Faucheville è stata riscattata. E un'altra volta, uno a cui parlavo di Swann per far capire cosa fosse un uomo di spirito di quei tempi, mi disse, «Ah sì, la duchessa di Guermont mi ha raccontato qualche sua battuta». È un vecchio signore che avete conosciuto in casa sua, non è vero? Il passato era talmente trasformato nella testa della duchessa, oppure le demarcazioni che c'erano nella mia erano sempre state così assenti dalla sua, che quanto aveva costituito per me un avvenimento era passato per lei inosservato, da farle supporre che io avessi conosciuto Swann a casa sua e il signor di Beauté altrove, attribuendomi così un passato d'uomo di mondo che per di più faceva cominciare troppo presto. Infatti, la stessa nozione del tempo trascorso che io avevo appena acquisita la possedeva anche la duchessa, e anzi, con un'illusione inversa rispetto alla mia, che me l'aveva fatto credere più breve di quanto non fosse, lei, al contrario, esagerava, lo faceva risalire troppo indietro, senza tener conto, in particolare, dell'infinita linea di demarcazione fra il momento in cui lei era per me un nome, poi l'oggetto del mio amore, e il momento in cui non era stata più per me che una qualsiasi donna del gran mondo. Ora, io ero andato a casa sua solo in questo secondo periodo, quando lei era per me un'altra persona, ma queste differenze sfuggivano ai suoi occhi e non avrebbe trovato niente di strano nel fatto che fosse andato a casa sua 2 anni prima, già che non sapeva che era un'altra persona, con un altro stuoino, e la sua persona non presentava per lei la discontinuità che presentava per me. Dissi alla duchessa di Guermont: «Questo mi ricorda la prima volta che sono andato a una serata dalla principessa di Guermont, quando credevo di non essere invitato e che mi avrebbero messo alla porta, e voi avevate un vestito tutto rosso e delle scarpette rosse». «Mio Dio, com'è vecchio tutto ciò», disse la duchessa di Guermont, accentuando così per me l'impressione del tempo trascorso. Guardava malinconicamente lontano e tuttavia insistei in modo particolare sul vestito rosso. Le chiesi di descrivermelo e lei compiacentemente lo fece. «Adesso non si porterebbe assolutamente più. Erano vestiti che si portavano a quei tempi». «Ma non era bello?» le chiesi. Lei temeva sempre di fornire con le proprie parole qualche elemento contro di sé, di dire qualcosa che la diminuisse. «Non dico che non lo fosse. A me piaceva molto. Non se ne portano più perché adesso non si fa più. Ma si riporteranno. Tutte le mode ritornano nei vestiti, nella musica, nella pittura», aggiunse con forza, perché le sembrava una filosofia piuttosto originale. Ma la tristezza di invecchiare le restituì la sua stanchezza, contrastata da un sorriso. «Siete sicuro che le scarpe fossero rosse?» «Credevo che fossero d'oro». Le assicurai che tutto era dentro di me, infinitamente presente, senza dire quale circostanza mi consentisse d'affermarlo. «Siete gentile a ricordarvene», mi disse teneramente, «perché le donne chiamano gentilezza che ci si ricordi della loro bellezza, come gli artisti che si ammirino le loro opere. D'altronde, per remoto che sia il passato, quando si è una donna di primo piano come la duchessa, può ben succedere che esso non sia dimenticato». «Vi ricordate?» mi chiese, come per ringraziarmi d'aver serbato memoria del suo vestito e delle sue scarpette. «Che vi abbiamo riaccompagnato a casa, Bazin e io. C'era una ragazza che doveva venirvi a trovare dopo mezzanotte». Bazin rideva di cuore all'idea che riceveste visite a quell'ora. «In effetti, Albertine quella sera era venuta a trovarmi dopo il ricevimento della principessa di Guermont. Me lo ricordavo bene quanto la duchessa. Io, cui Albertine era adesso indifferente come lo sarebbe stata a Madame de Guermont, se Madame de Guermont avesse saputo che era Albertine la fanciulla a causa della quale non ero potuto entrare da loro. A lungo, dopo che i poveri morti sono usciti dai nostri cuori, la loro polvere indifferente continua infatti a mischiarsi, a servire da collante alle circostanze del passato. E succede che, evocando una camera, un viale, un sentiero in cui si trovarono in un determinato momento, noi, perché il posto che occupavano non rimanga vuoto, non possiamo fare a meno, anche senza più amarli, di alludere ad essi, magari senza rimpiangerli, magari senza nominarli, magari senza permettere che vengano identificati». Madame de Guermont non identificava certo la fanciulla che doveva venire quella sera, non l'aveva mai saputo, e ne parlava solo per la bizzarria dell'ora e della circostanza. Tali sono le forme ultime e poco invidiabili della sopravvivenza. Se i giudizi che la duchessa espresse su Rachel erano di per sé mediocri, mi interessarono in quanto segnavano anch'essi un'ora nuova sull'orologio. Infatti anche la duchessa, come Rachel, non aveva affatto perduto il ricordo della serata passata dall'attrice in casa sua, ma tale ricordo aveva subito nella sua memoria una non minor trasformazione. «Vi dirò», mi disse, «che trovo tanto più interessante sentirla e sentirla acclamata, in quanto l'ho scoperta, apprezzata, raccomandata, imposta, in un momento in cui nessuno la conosceva e tutti si beffavano di lei. Sì, ragazzo mio, la cosa vi stupirà, ma la prima casa in cui si è fatta sentire in pubblico è stata la mia. Sì, mentre tutta la gente cosiddetta d'avanguardia, come la mia nuova cugina», disse indicando ironicamente la principessa di Guermont, che per Orion continuava a essere Madame Verdurin, «l'avrebbe lasciata crepare di fame senza degnarsi d'ascoltarla, io l'avevo trovata interessante e le avevo fatto offrire un compenso per venire a recitare a casa mia davanti al meglio del meglio. Posso dire, con un'espressione un po' sciocca e pretenziosa, perché in fondo il talento non ha bisogno di nessuno, di averla lanciata. Ben inteso, non aveva affatto bisogno di me». Abbozzai un gesto di protesta e vidi che Madame de Guermantes era prontissima ad accogliere la tesi opposta. «Ah sì? Voi credete che il talento abbia bisogno d'un appoggio? Di qualcuno che lo metta in luce? In fondo, forse avete ragione. È strano. Dite esattamente quello che mi diceva una volta Dumas. In questo caso sono davvero lusingata ad avere una qualche parte, anche piccolissima, non nel talento, è chiaro, ma nel successo di un artista simile». Madame de Guermantes abbandonava volentieri l'idea che il talento scoppia da solo, come un ascesso, perché per lei era più lusinghiero, ma anche perché da un po' di tempo, ricevendo gente nuova ed essendo d'altra parte affaticata, era diventata abbastanza umile e interrogava gli altri, chiedeva la loro opinione allo scopo di farsene una. «Non ho bisogno di dirvi», riprese, «che l'intelligente pubblico chiamato Gran Mondo non ci capiva assolutamente niente. Protestavano, ridevano, per quanto mi affannassi a dire: è singolare, è interessante, è qualcosa che nessuno ha mai fatto prima, loro non mi credevano, come non mi hanno mai creduto niente. È come la cosa che recitava, una cosa di Maeterlinck, adesso è molto nota, ma allora tutti ci ridevano sopra. Ebbene, a me sembrava stupenda. Mi sorprende persino, se ci penso, che una contadina come me, una che ha ricevuto solo l'educazione delle ragazze della sua provincia, abbia amato cose simili sin dal primo momento. Naturalmente non avrei saputo dire perché, ma mi piaceva, mi prendeva, ecco. Bazin, che non è certo un sensibile, era rimasto colpito dall'effetto che mi faceva. Mi aveva detto: non voglio che sentiate queste assurdità, vi fanno star male. E aveva ragione, perché mi prendono per una donna arida, mentre in fondo sono un fascio di nervi.